Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Stasera proseguiamo con la seconda parte dell'intervista a Valerio Natalizia, presidente del GIFI, il gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane. Il tema è quello del quinto conto energia che il governo vorrebbe introdurre per fermare l'escalation del costo dell'energia elettrica, su cui le rinnovabili elettriche, appunto, in particolare il fotovoltaico, pesano già oggi in modo significativo tra incentivi e costi di adeguamento del sistema elettrico. Cosa non va in questa proposta di un quinto conto energia? Sentiamo cosa risponde Natalizia. Nella bozza che circola in questi giorni ci sono degli elementi critici. Quello, a mio avviso, più importante, uno dei più importanti, è il discorso del registro, che dovrebbe prevedere l'iscrizione prima di ricevere appunto la possibilità di avere gli incentivi a questo registro pubblico, quindi facendo una domanda dagli impianti praticamente piccoli, perché si parla dai 3 kW. Sì, che sono pochissimi, quindi, effettivamente. Sì, questo perché sì. Il privato cittadino, ecco, dovrebbe... Ma dove la mettereste questa soglia? 3 kW sono come il contatore elettrico, sono proprio il classico piccolo impianto per la famigliola italiana. Voi dove mettereste questa soglia? Allora, è difficile dare una risposta, perché, come potrà ben immaginare, uno potrebbe avere in mente un numero diverso. Quello che diciamo noi è questo: noi vogliamo aiutare chi dovrà prendere la decisione finale su questo conto energia a trovare una soglia che possa consentire, ripeto, sia ai privati cittadini ma anche alle piccole aziende, di installare un impianto fotovoltaico senza, tra l'altro, non solo avere delle lungaggini in termini di iter autorizzativo, ma anche dei costi aggiuntivi, perché in quel caso anche la signora Maria dovrà preparare della documentazione, fare tutto l'iter, e quindi ci saranno dei costi aggiuntivi, mentre noi vogliamo ridurre i costi. Ecco, senta, come vede lo sviluppo del settore, che cosa anche vi proponete, nel senso che appunto oggi anche i numeri, 100.000 occupati, sono quelli di un settore che installa 6 gigawatt fotovoltaici all'anno in Italia, come se in Italia si vendessero tutti gli anni 20 milioni di auto con 35 milioni di parco circolante, no? Se uno lo fa per 2 anni, poi dopo non c'è più nessuno che vuole un'auto perché non ne ha più bisogno. Quindi lo sapete, allora, credo che andate verso una dinamica di ridimensionamento di quei numeri lì. Ma guardi, allora, se analizziamo i dati dell'installato oggi, vediamo che una grossa parte degli impianti realizzati da quando è stato introdotto il conto energia sono in media tensione e spesso sono anche di grossa taglia. Perché dico questo? Perché anche un ridimensionamento, quindi pensiamo a un mercato annuale che possa avere un volume dai 2 ai 3 gigawatt, che secondo noi potrebbe essere un volume sostenibile, questo volume diviso, suddiviso per taglie piccole o medie, garantirebbe una maggiore espansione anche del numero degli occupati, e garantirebbe anche quella creazione di posti di lavoro sul territorio. Parlo di studi di progettazione, parlo di chi fa le strutture di sostegno, parlo di chi fa i trasformatori piuttosto che... Certo, gli inverter e tutti gli altri componenti. Chi fa gli inverter, sì. Senta, ma per stringere in un certo senso... Sì. Di quanti soldi ci sarebbe bisogno, secondo voi, per garantire una transizione morbida? Ma noi chiediamo quello che era presente nel quarto conto energia, dove veniva identificato un volume pari a 6-7 miliardi, raggiunti 6, probabilmente si raggiungeranno entro la fine dell'anno, sì. Ci sarà questo nuovo intervento, quindi questo nuovo decreto, e a quel punto noi chiediamo di poter arrivare al limite dei 7 miliardi, per poi appunto avere la possibilità di utilizzare la tecnologia fotovoltaica anche senza gli incentivi. Quindi identifichiamo nel limite che era già stato pensato nel quarto conto energia il limite della spesa da raggiungere. E se si andasse a prendere qualcosa da chi ha potuto beneficiare di conti energia estremamente generosi, tripli rispetto a quelli tedeschi come il secondo e il terzo conto energia, e magari per usare queste risorse anche per garantire la continuità allo stesso settore del fotovoltaico, ma le sembrerebbe un'idea poi così balzana? Naturalmente un prelievo che deve avvenire attraverso una tassazione, perché non ci può essere una riduzione a posteriori degli incentivi, però si può, come sappiamo, mettere lì un balzello. Lei cosa ne penserebbe? In realtà non è, come dire, una proposta malvagia in termini generali e chiaramente in termini ideali. Forse fa meno male di altre cose. Ecco, non so come però dire. In pratica qual è il vero problema? È che queste persone, queste aziende, questi investitori hanno fatto, certo, un investimento con dei costi che erano molto più elevati dei costi attuali, e quindi anche le tariffe molto più alte probabilmente erano mitigate da anche costi molto più alti. Lei riconoscerà certamente che tutte le aziende che hanno iniziato un'attività industriale con certi costi dell'energia e poi questi sono aumentati del 10-20% si trovano esattamente nella stessa situazione, tutto sommato, no? Sì, sì. Parallelamente. Sì. Ecco, insomma. Ed è quello che infatti abbiamo discusso diverse volte anche con queste aziende, è una proposta che noi potremmo fare soprattutto ad alcune che ne hanno la possibilità, è agevolare anche l'installazione di questi pannelli su settori industriali di piccole e medie imprese che potrebbero trarne un beneficio molto elevato, per esempio col premio dell'autoconsumo, che tra l'altro era già presente nel quarto conto energia e che ci sarà anche nel quinto, cioè andare a premiare chi consuma nello stesso momento in cui produce e quindi generando un sistema energetico. Una responsabilizzazione del produttore di energia rinnovabile. Assolutamente sì. Bene, lunedì concluderemo questa nostra analisi di quanto sta accadendo al costo dell'energia e del ruolo che in questo ha il fotovoltaico. Lunedì incontreremo chi nel fotovoltaico ha investito di più cercando di far crescere un'attività industriale. Buon fine settimana a voi tutti.